America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. President Trump is expected to withdraw from the Paris Climate Accord signed by 192 nations. Sources tell CNN a formal announcement will happen this week. What will it mean? Beh, avete sentito, Donald Trump aveva detto qualche giorno fa a Taormina, quando decise di non sottoscrivere con gli altri sei membri del G7 una conferma degli accordi di Parigi, degli accordi sull'ambiente, entro pochi giorni prenderò una decisione. Ebbene, Donald Trump di fatto la decisione l'ha presa, manca ancora qualche dettaglio alla conferma formale, però ha deciso di uscire dall'accordo di Parigi. C'è stato tra l'altro un dibattito interno all'amministrazione, personaggi come Steve Bannon, sappiamo il suo consigliere l'estremista, era assolutamente contrario all'adesione, la figlia Ivanka invece voleva che il padre restasse nell'accordo sull'ambiente, e così pure Rex Tillerson, il segretario di Stato. Dunque è stato un processo comunque lungo, in questo caso Trump decide contro la figlia. Trump di fatto era già uscito da alcuni pilastri che aveva già introdotto l'amministrazione Obama e che riflettevano certe direttive degli accordi di Parigi. E qui c'è soltanto, come dire, un coronamento politico. Ecco, la cosa è importante non soltanto sul piano tecnico ambientale, ma anche su quello politico, perché Donald Trump di fatto toglie la leadership all'America di uno dei temi su cui l'America è stato davvero il grande ispiratore, il grande traino, e non solo, ma concede alla Cina su un piatto d'argento la possibilità di sostituirsi all'America. Dunque ci sono delle implicazioni, oltre che ambientali, anche politiche e geopolitiche. Ecco, di questo voglio parlare con Federico Rampini, corrispondente per Repubblica dagli Stati Uniti, caro amico e collega che è con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Federico. Buongiorno Mario. Eccoci. Allora Federico, intanto qual è la tua impressione? Un po' ce l'aspettavamo. Tu tra l'altro sei stato al seguito di Donald Trump, sei stato dall'Arabia Saudita all'Europa, a Bruxelles, a Taormina, a Roma, insomma hai seguito tutto questo viaggio. Era già nell'aria allora questa cosa? Ma guarda, era abbastanza nell'aria, però sapevamo che era in corso anche questo scontro tra consiglieri di Trump, tu l'hai ricordato, e avrebbe potuto prevalere la linea di Ivanka, che sia chiaro, non è una linea ambientalista. Voglio dire, lo schiaffo che Trump fa agli alleati, agli europei, alla Cina, praticamente a tutto il resto del mondo, è un po' gratuito, perché come tu hai ricordato giustamente, nei fatti lui dagli accordi di Parigi è già uscito, tutte le misure che ha prese svuotano l'applicazione di quell'accordo. Siccome l'accordo di Parigi non prevede sanzioni per chi è inadempiente, in fondo lui poteva fare il furbo, cioè restare dentro la cornice degli accordi di Parigi formalmente, non denunciarli, e poi continuare sulla linea che è la sua, hai ricordato, insomma, le trivellazioni, gli oleodotti, lui sta tornando all'energia fossile, no? Poteva insomma avere una linea più ipocrita, quindi secondo me è una scelta dettata da un istinto politico e non da una strategia economica lungimirante. Ecco, tu hai parlato di uno schiaffo agli europei, e questo è un tema di cui si è dibattuto molto. Io credo in realtà che Trump sia semplicemente totalmente inesperto, dice quello che gli viene in mente e non necessariamente vuole dare uno schiaffo per dare uno schiaffo, e in questo caso non è possibile che lui invece abbia tenuto presente soprattutto la promessa elettorale, cioè lui aveva promesso durante le elezioni che sarebbe uscito dagli accordi di Parigi. E dunque qui Bannon gli dice attenzione perché rischi di inimicarti la base. Ecco, possibile che ci sia questo aspetto che abbia prevalso? Sì, è proprio quello che io intendo quando dico che è una scelta politica che non corrisponde neanche all'interesse economico degli Stati Uniti. Va tenuto presente che tra le colombe, diciamo così, che lo spingevano a restare negli accordi di Parigi c'era niente meno che il suo segretario di Stato Rex Tillerson. Tillerson che è stato chief executive della Exxon. E la stessa Exxon ultimamente aveva rivolto un appello a Trump perché rimanesse negli accordi di Parigi, perché ormai perfino le multinazionali del petrolio diversificano nelle energie rinnovabili e c'è tutto un pezzo di economia americana che ha puntato sull'auto elettrica. Ecco, un altro personaggio vicino a Trump che è Elon Musk della Tesla, il gioiello dell'auto elettrica californiana, voleva, e anche consigliere di Trump, tra l'altro, e anche lui spingeva per rimanere nell'accordo di Parigi. Non c'è una logica economica. La scelta è politica, come dicevi tu, è diventato un simbolo per la base repubblicana. Dopo che nei comizi elettorali lui aveva detto il cambiamento climatico è una bufala, questo è diventato ormai un tema che fa parte, direi proprio della, quasi dell'identità della destra repubblicana. Cedere su questo diventa fare una retromarcia in cui si cede su un dato di principio, di valori, di convinzioni. Insomma, questa storia del negazionismo climatico è diventato un elemento che definisce l'essere di destra in America. Ecco, tu Federico giustamente hai ricordato l'aspetto economico, che non è secondario, perché c'è tutto un settore nuovo che si sta sviluppando, non soltanto quello dell'auto elettrica, ma proprio un vero e proprio settore che avrebbe dovuto poggiare su queste innovazioni. Però c'è un altro guaio serio per gli Stati Uniti, e andiamo in chiusura così vediamo di esplorarlo, e cioè che sul piano geopolitico, beh, insomma, questo passo indietro significa svuotare di una posizione di leadership globale l'America. Esattamente, è una retromarcia pericolosa proprio per il ruolo che l'America ha sempre avuto nella governance globale. Danneggia gli interessi di tante industrie americane che sul risparmio energetico, sulle fonti rinnovabili, sulla green economy hanno investito. Rischia di regalare una leadership alla Cina o anche alla Germania, che è un paese che su queste cose invece punta molto. Però, ripeto, qui siamo in un campo che ha molto a che fare con l'ideologia, col compattare la base del Partito Repubblicano. E giustamente tu hai ricordato il ruolo anti-accordi di Parigi di Steven Bannon. Ecco, Steven Bannon è uno che ragiona proprio pensando alla testa dell'elettore repubblicano più convinto, più acceso, quello che è stato decisivo per la vittoria di Trump. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su americano24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Federico, beh, tu sei un grande esperto non solo di Beatles ma di musica e di canzoni. Dunque, cosa vogliamo proporre ai nostri ascoltatori? Ma io propongo una canzone che va esattamente contro questa decisione di Trump. L'ambientalismo l'hanno inventato gli americani, in particolare la California. E allora, San Francisco, if you go to San Francisco, put some flowers in your hair. Put some flowers in your head, assolutamente. E da lì, insomma, poi c'è stato il movimento hippie, e da lì che è partito tutto. Di Scott McKenzie, San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!